Una manifestazione anacronistica, piena di livore verso Berlusconi e emblematica del peggior modo di fare opposizione. Il centrodestra bolla così quanto accaduto ieri in Piazza Navona e Di Pietro in particolare ad essere messo sotto accusa dal Popolo della Libertà, così il capogruppo alla Camera Cicchitto. Gli insulti ci indignano e sono la testimonianza che sta entrando in campo una componente eversiva neofascista che paradossalmente è alleata col Partito Democratico e lo condiziona troppo fortemente. Un no trasversale arriva poi agli attacchi a Napolitano e al Papa. Il portavoce di Forza Italia Capezzone parla di grave aggressione al capo dello Stato, Veltroni di attacchi intollerabili. Il leader PD poi spiega un'opposizione che insulta l'avversario ma non fa politica è un regalo a Berlusconi. Il capitolo lodo Alfano. Veltroni attacca Fini, i tempi sono troppo stretti, così si espropria il Parlamento, dice il numero uno del PD. Il capogruppo Soro aggiunge: la discussione presuppone che ci sia un luogo e un tempo in cui si verifica. Certamente non negli scampoli di qualche ora all'interno di un calendario che dura da oggi a domani. Non si fa attendere la replica del presidente della Camera Fini. La presidenza non ha violato alcunché e men che meno espropriato la Camera delle sue prerogative. Non mi piace, ma la decisione di Fini è corretta, commenta Casini. Di fatto allora il lodo Alfano va avanti, nel pomeriggio sarà in aula, domani sera il voto di Montecitorio. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.